Ciao a tutte e tutti, comincia adesso la nuova puntata di Uru. Come tutte le settimane parliamo di Africa, l'ascolteremo, una nazione in particolare stasera, il Burkina Faso. E prima di iniziare, come al solito, vi leggiamo i nostri social, il sito wombat.noblogs.org, da dove oltre ad ascoltare lo streaming potete scaricare tutti i podcast delle puntate precedenti dal menu podcast sul sito, il primo a sinistra. Twitter, twitter.com/radiowombatfi, e Uru, vi ricordo che ha anche il proprio profilo Twitter, quindi se siete interessati a sapere qualcosa in più dell'Africa potete consultarlo, è uru-rw, e poi c'è posta wombat @insiberia.net per parlare con noi, con suggerimenti, notizie, critiche, quello che volete. Sì, parliamo del Burkina Faso, ma e della musica del Burkina Faso, ma in particolare di un periodo in cui questa musica è stata registrata, è stata prodotta ed è stata suonata, cioè gli anni 70, approssimativamente proprio da 1970 a 1978, un periodo in cui il Burkina Faso si chiamava ancora Alto Volta, Upper Volta, proprio prendendo il nome dal fiume che lo attraversa, in questo caso la parte superiore del fiume lo attraversa per intero sostanzialmente. Poi successivamente e fortunatamente, diciamo, questo paese ha cambiato nome, si è chiamato appunto Burkina Faso e significa terra degli uomini liberi, proprio in seguito alla rivoluzione sociale e politica portata avanti in particolare da Thomas Sankara, ma diciamo da tutta una serie di organizzazioni e comunque da tutta la popolazione, una rivoluzione in senso sociale e socialista con sviluppi in particolar modo nel campo agricolo, nel campo dell'alfabetizzazione, nel campo sanitario e che poi successivamente proprio per l'interesse delle multinazionali e dei grandi paesi, diciamo che dei gendarmi del mondo è stata non tanto soffocata sul sangue dal punto di vista dell'uccisione degli individui, ma soffocata nel sangue, nel senso dell'assassinio appunto di Thomas Sankara pochissimi giorni dopo che all'ONU, alla Tribuna delle Nazioni Unite, aveva denunciato sempre l'aumento della forbice tra paesi ricchi e paesi poveri. E appunto, ritornando al tema della nostra trasmissione, un periodo particolare per l'Alto Volta, attuale Burkina Faso, perché i pezzi che vi facciamo ascoltare oggi sono non tanto pezzi direttamente collegati, diciamo, a quelle che sono la tradizione, i suoni tradizionali del Burkina Faso, ma come spesso succede in questi casi, sono pezzi musicali in cui, diciamo, le nuove sonorità che cominciavano ad arrivare in Africa con la prima diffusione del vinile, in questo caso molto spesso dei 45 giri o anche dei nastri registrati, appunto queste nuove sonorità venivano assimilate, venivano fatte proprie ed erano sotto certi aspetti proprie perché si tratta per lo più, anzi esclusivamente di musica soul, musica funky che a sua volta si innesta appunto in quelle erano le tradizioni musicali e nello stesso momento veniva suonata con gli strumenti tradizionali del Burkina Faso. E appunto un periodo fecondo in cui diversi gruppi musicali, orchestre in particolare, sono una caratteristica, come abbiamo già detto precedentemente, di queste zone, diciamo, dell'Africa, ma anche artisti solisti hanno cominciato a incidere, in particolare 45 giri che sono al momento per lo più introvabili. Di alcuni autori si sono persi addirittura non solo le tracce, le registrazioni, ma anche, diciamo, proprio i titoli delle canzoni, quali erano, dove erano state incise e via dicendo, ma quelli che andiamo a ascoltare li abbiamo trovati, a volte si sente anche un fruscio sottofondo perché sono a volte molto spesso digitalizzazioni, comunque registrazioni su supporti molto, molto vecchi. Il primo gruppo di cui ascoltiamo un pezzo sono gli Afro Soul System, che si sono formati a Ouagadougou, lo scioglilingua che corrisponde alla capitale del Burkina Faso. Si sono formati nel 74. Pensate che hanno ereditato gli strumenti da un'altra band che stava andando in Europa a cercare fortuna. Il cantante Youssouf Compaoré ha pubblicato anche due album come solista. Praticamente loro hanno trasformato la musica mossi, tipica burkinabè, in soul. I testi, specialmente nel periodo di cui stiamo parlando, cioè gli anni 70, sono molto diretti e parlano di schiavitù, colonialismo, indipendenza. Un dato pazzesco è che loro hanno suonato al Parco Lambro, al Festival del Parco Lambro nel 1976, come accompagnatori di Gabin Dabiré, grande cantante burkinabè, appunto, che in quel periodo abitava a Milano, dove ha vissuto tanti anni, mentre da tanti anni adesso abita in Toscana, nel Chianti precisamente. Di loro ci ascoltiamo Think Tank. Thank you. baby, you wealthy baby. Sì, alcuni l'hanno definito, e forse ha ragione, un mystic soul. Un mystic soul nudo e crudo. Ma ci possiamo immaginare a suonare al Parco Lambro nel 176. E tra l'altro, le copertine non solo degli Afro Soul System, ma anche dei soggetti, degli interpreti che vi faremo ascoltare successivamente, sono veramente belle, veramente, e che tra l'altro risentono, si vede proprio lo spirito, non simili a quelle che erano le copertine, diciamo, psichedeliche dell'epoca, diciamo, europee, nordamericane, insomma, ma con anche lì con questa particolarità della sensibilità, diciamo, dei disegni, delle figure africane. E ritorniamo a giorni nostri per un po', per darvi la notizia che degli scontri in Tunisia, appunto, infatti all'inizio della settimana, secondo quanto riporta l'agenzia ansamed.info, ma che poi è stato rilanciato anche da altre agenzie, in particolare chiaramente la France Press e via dicendo, nella centrale Avenue Bourguiba a Tunisi, il movimento apartitio denominato Cosa Stiamo Aspettando, che tra l'altro apartitio è anche organizzato dal basso e comunque sotto certi aspetti anche spontaneo, è sceso in strada per denunciare il forte aumento dei prezzi e la politica del governo, e chiedendo un ritiro della legge finanziaria, questa del 2018, e annunciando una nuova manifestazione per domani. I disordini, cioè le manifestazioni, hanno interessato non soltanto Tunisi, ma anche altre città, cioè Tlemcen, Chetra, Bujaïla, Ouzlatia, e cioè che è Kairouan, Douz, Kebili, Gafsa, Teburba, e con scontri continui con le forze dell'ordine che hanno tentato fin dall'inizio di impedire alla popolazione di manifestare. E la polizia, appunto, ha reagito con mano dura, e ci sono state nella prima manifestazione una cinquantina di persone arrestate, 14 ordinanze di custodia cautelare in carcere per reati contro il patrimonio e contro i pubblici ufficiali. Cambiano le latitudini, ma la pesantezza dell'intervento della polizia e le denunce a carico dei manifestanti sono le stesse. Tra l'altro, ieri l'altro c'è stata un'altra manifestazione che ha portato ad altri 350 all'incirca arresti, e all'inizio della settimana una di queste manifestazioni c'è scappato in morte. È accaduto a Teburba, non distante dalla capitale tunisi, dove un 43enne, dopo aver partecipato agli scontri, è deceduto in ospedale, dove era arrivato in stato d'asfissia. Anche se le circostanze della sua morte non sono state ancora chiarite, perché ancora non c'è stata l'autopsia, ma appare evidente che l'asfissia sia dovuta proprio all'eccessivo, cioè è stata causata dallo sproporzionato numero di lacrimogeni che sono stati lanciati contro i manifestanti. Chiaramente il governo si è schierato contro le manifestazioni con la solita parole di circostanza, che anche lì a tutte le latitudini sono le stesse: individui che saccheggiano, sottraggono beni e aggrediscono i tunisini, il diritto di manifestare garantito per legge, ma queste manifestazioni non sono pacifiche, per cui dobbiamo intervenire. E è stata condannata questa manifestazione anche dal partito islamico in Nata, seconda forza del paese, che si è, diciamo, comportato come tutti gli altri partiti politici, e addirittura ha accusato alcuni partiti politici anarchici di sinistra di approfittare delle rivendicazioni manifestanti per incitare al caos e agli atti di vandalismo. Il leader dell'opposizione a Mani, l'opposizione sinistra del raggruppamento appunto di sinistra Fronte Popolare, ha giustamente accusato la coalizione di governo di essere responsabile delle violenze e ha annunciato una nuova manifestazione per domani l'altro, il 14 gennaio, sì, che tra l'altro è la data simbolo della rivoluzione dei Gelsomini, si è chiamata movimento di protesta di alcuni anni fa che costrinse il presidente a vita, diciamo, Ben Ali a scappare e diciamo e in seguito a questa rivoluzione, diciamo, al di là di come poi si sono sviluppate in ambito elettorale, parlamentare, le vicende, comunque ha creato una forte sensibilità nella società tunisina. Ritorniamo alla musica e parliamo di uno degli artisti burkinabè più famosi, cioè Amadou Traoré, però conosciuto come Amadou Balaké. Nato nel 1944 nel nord del Burkina Faso, nel 1952 la madre, dopo essere rimasta vedova, si è trasferita nella capitale, dove Amadou cominciò a interessarsi alla musica. Pensate che ha trascorso 6 anni a lavorare con suo fratello come apprendista autista a Mopti, città del Mali, prima di tornare in Burkina nel 61 per lavorare appunto come tassista. Nel 62 però ha cominciato la sua carriera professionale suonando in diverse orchestre, sia a Bamako che a Abidjan, a Kankan, a Conakry, per tutto il decennio. Si è unito poi alla band di Ouagadougou Harmonie Voltaïque e ha ottenuto un successo con la canzone Balaké, Porcospino in Mandinka, cambiando il suo nome, appunto riprendendo il nome del successo avuto dalla canzone, quindi Amadou Balaké. Quindi la musica di Balaké combina tradizioni come la musica da ballo Varba del Burkina Faso e la moderna musica Mandé. Balaké canta principalmente in diola, in francese e occasionalmente in mossi. Il suo approccio alla musica è stato paragonato a quello della Rail Band e del Bembeya Jazz, due gruppi di cui ambedue in passate puntate abbiamo sentito dei pezzi. Di lui ci sentiamo Johnny. Nadi. Et ce manne bébé de Mobila. Denindo Kumbempe, Ayengo Kenna. Nekoye ye Denindo Kumbempe, Kabako, Deninye Kokena sa. Dondora wola fe, Mbara Kumbe se na yala. Nyenga watiri kono, Nini ni feme toje, akanyi kosobe. Netura deniko, warafaka so. Ndona lukono, wanye bolike. Nekoye yede ni tumpu mbembe derike. Ayeko kena de. Kumba, ebe mumbarake, nye kumere sanye, mbesugu feba jema, ayelela. Deni yenegele, iyo deni yenegele, nefo deni tenefe. Atele fila sagoma, deni na nambara. Ma guayira, neza mafu, ne yodoma. Akoma pantalon, neza mafu, ne yodama. Akoma kafekura, neza mafu, ne yodama. Ye kole folie dereke. Akonye kole folie te. Aye tabako, utiki beba nambolo. Continuando il discorso che abbiamo fatto sulla cosa dell'intervento italiano in Niger, vogliamo dare anche un altro aspetto della questione, e cioè che in Niger figura tra gli stati che sono considerati beneficiari prioritari degli aiuti allo sviluppo, diciamo, stanziati dal Fondo Fiduciario di Emergenza per l'Africa, EUTF. Tale fondo, istituito nell'ottobre del 2015 in occasione del vertice euro-africano tenutosi a La Valletta, con l'obiettivo di finanziare con rapidità iniziative per affrontare le cause profonde dei problemi africani, e soprattutto delle migrazioni irregolari, che ormai è l'unica cosa che interessa all'Europa, ammonta a 2,8 miliardi di euro, di cui l'80% è preso dall'European Development Fund, il fondo principale per gli aiuti europei allo sviluppo, il quale vede conseguentemente ridotte le sue capacità d'azione. In tal modo, praticamente, quest'ultimo fondo, che per la legge europea dovrebbe essere deputato alla lotta alla povertà e allo sviluppo sostenibile, per affrontare sfide di tipo strutturale e di lungo periodo nei paesi africani, viene usato per un intento sostanzialmente politico, e cioè quello, naturalmente, di porre un freno al fenomeno migratorio nel breve periodo. Ciò che viene attraverso una vera e propria militarizzazione del paese, che in ultima analisi appare destinata al controllo del territorio e delle risorse. Questo denaro, infatti, va a finire per la fornitura di attrezzature militari, la formazione di forze di polizia, l'istituzione di centri di detenzione per migranti e per la raccolta dei dati biometrici, anziché per scuole, acqua, assistenza sanitaria, che era l'idea per cui era stato fondato. Di fatto, alcuni paesi hanno aumentato il proprio bilancio per la sicurezza e la difesa a scapito di investimenti in settori chiavi come istruzione e salute. In Niger, il Fondo Monetario Internazionale ha registrato che nel 2015, quando è stata approvata sotto la pressione dei partner europei una legge ad hoc sulla lotta al traffico di migranti, sono stati tagliati i fondi per la salute e l'educazione e dirottati sulle politiche di sicurezza. Cioè, ancora una volta, tutto quadra, no? Cioè, tutto l'intervento in questi paesi, e in Niger purtroppo per i loro abitanti è un punto focale, è tutto configurato solo ed esclusivamente contro i migranti che passano di lì. Sì, vi ricordiamo proprio perché sono state cambiate un po', anzi vi invitiamo a guardare un po' il palinsesto di Radio Wombat, perché in seguito a nuove trasmissioni il palinsesto si è arricchito, ma nello stesso momento ci sono state alcune non significative, però alcune piccole variazioni di orario per alcune trasmissioni, anzi in particolare per le repliche di alcune trasmissioni. Questo cambiamento orario ha interessato anche Uru, e quindi oltre alla diretta del venerdì, quella delle 21:30, invece che la domenica e lunedì mattina e pomeriggio, i nuovi orari sono la domenica alle 23 e lunedì mattina alle 8:30. Ecco, domenica 23 e lunedì 8:30 sono gli orari delle repliche di Uru. E continuiamo sempre con Mapudu Ballakè, che appunto è uno dei grandi, anche perché ha inciso una discografia non diciamo sterminata, però molto vasta, in particolar modo su 45 giri, e ce ne sentiamo un altro pezzo sempre a Mapudu Ballakè, e il pezzo si intitola Sali. Wayne and I didn't even know the other name was so Name Sì, continuando, approfondendo la notizia che abbiamo dato precedentemente, cioè quella sul fondo fiduciario d'emergenza per l'Africa, che a dispetto del nome, a dispetto dal motivo per cui era stato creato, cioè per finanziare progetti sociali, di portata sociale, sta facendo, viene utilizzato per tutt'altro, c'è anche l'aspetto del monitoraggio. Il monitoraggio quest'anno è stato pubblicato dai CINI, che è il coordinamento italiano delle organizzazioni non governative internazionali, da Concord, che è un network delle organizzazioni, sempre organizzazioni non governative in Europa, che mettono in rilievo i punti critici della gestione del fondo. E si legge nel loro rapporto che i progetti, quelli finanziati dal fondo appunto, sono ideati direttamente dagli Stati membri e a Bruxelles, riflettendo le priorità nazionali e europee, e no in cosa occorrerebbe effettivamente ai paesi su cui vengono stanziati i fondi. Il processo di selezione dei progetti sempre non è trasparente ed è soggetto a pressione da parte degli Stati europei, che spingono per l'ammissione al finanziamento dei propri progetti, cioè ogni Stato sostanzialmente spinge per fare in modo che venga finanziato il proprio progetto, proprio a causa delle clientele, degli intrallazzi, diciamo, degli ammanicamenti che ci sono e che ruotano intorno a questa cospicua, diciamo, somma di denaro. E inoltre sono sempre questi due coordinamenti di organizzazioni non governative che lo sostengono. Spesso, soprattutto nelle fasi iniziali, diversi progetti sono lontani dai bisogni locali e privi di una visione complessiva di quello che occorrerebbe in quel tale paese in cui i progetti vengono applicati. E oltretutto, e questo anche perché oltretutto le persone, la popolazione del posto sono raramente o mai consultate, e quindi quando vengono le decisioni vengono prese da altra parte. Il risultato di tale gestione, conclude il rapporto citando i casi studio chiaramente su Libia e su Niger, chiaramente, è che la politica del fondo europeo, contestata oltretutto la maggioranza delle organizzazioni della società civile africana, genera gravi effetti avversi in termini di sviluppo, di tutela dei diritti umani e della stessa gestione delle migrazioni, cioè dei migranti. I progetti, essendo frutto delle priorità politiche dei paesi europei, alimentano governi inadeguati e incoraggiano attività di contrabbando e traffico di esseri umani più rischiose per i migranti, facilitano le politiche di detenzione e violazione dei diritti umani e limitano l'impatto economico, l'eventuale impatto economico positivo dei migranti, e impediscono ai rifugiati di accedere alle protezioni di cui hanno bisogno. Quindi un fondo creato per uno sviluppo sociale, uno sviluppo economico delle popolazioni locali, si è trasformato in uno sviluppo di contenzione, di repressione delle popolazioni locali. E viene infine sottolineato, sempre in questa parola, come la parola emergenza, a cui fa riferimento in fondo, sia una contraddizione in termini, se per emergenza intendiamo emergenza migranti, dato che la vera emergenza in Africa e in questo caso in Niger è lo sviluppo e la lotta alla povertà, che non possono essere appunto risolti rapidamente, ma che e quindi non sono un dato emergenziale, un fatto emergenziale, ma richiedono processi di lungo periodo e soluzioni di carattere strutturale. Passiamo adesso ad un altro musicista, Koulibaly Tidiane, che è nato nel 1941 a Kankalaba, in quello che allora era l'Alto Volta, come abbiamo detto fino ad oggi. Lui era anche chiamato Jeliba, che significa grande griot, che sapete anche dalle trasmissioni passate che i griot sono i cantastorie, i depositari delle tradizioni e della storia orale dell'Africa, specialmente di questa parte dell'Africa, tutta la parte est. Ha iniziato la sua carriera nel 62 con la Dynamic Jazz Orchestra, poi nel 64 ha fondato la Volta Jazz e nel 75 la Dafra Star, con cui è diventato famoso, diciamo. È stato un pioniere della musica moderna burkinabese, che ce l'ha portata via un po' dalla musica tradizionale, mescolandola, come dicevamo prima, con le sonorità che in quegli anni cominciavano a circolare e che hanno modificato la musica. Di lui ci ascoltiamo Se Congolò. Le iniziative portate avanti dalle popolazioni che vivono nel delta del Niger, cioè quindi nel sud della Nigeria, dove appunto ci sono grossissimi, grandissimi giacimenti petroliferi e conseguentemente grossissimi guadagni e permanenza delle multinazionali, si arricchiscono di un nuovo capitolo. E in questo caso la comunità nigeriana Ikebiri, che si è che ha intentato una causa contro l'ENI, ricordiamo che l'ENI è la compagnia estrattiva italiana, ancora in grandissima parte di proprietà dello Stato e quindi con una diretta responsabilità del governo, e appunto in questa causa è arrivata nel Tribunale di Milano, e il 9 gennaio, tre giorni fa, è iniziato a Milano il processo intentato contro l'ENI da parte del villaggio di Ikebiri nel delta del Niger. Gli abitanti della comunità chiedono alla società di San Donato Milanese 2 milioni di euro, quindi anche neppure tanto, per come sono i nostri parametri, insomma, e come risarcimento danni causati dall'esplosione di un oleodotto nel 2010. Oltre ai risarcimento danni, spiega l'avvocato che rappresenta la comunità Ikebiri, che è un avvocato italiano appunto perché il processo si sta svolgendo al Tribunale di Milano, la comunità nigeriana chiede all'ENI anche l'impegno a ripulire l'area di oltre 43 ettari. Anche perché l'esplosione avvenuta nei pressi di un fiume ha causato un disastro ambientale che ha inquinato acqua e terra. Ricordiamo, e l'abbiamo già detto anche in trasmissione precedente, perché tra l'altro le notizie delle iniziative delle comunità di base nigeriane contro le multinazionali del petrolio, in particolare contro l'ENI, sono notizie su cui cerchiamo di essere puntuali qui a Uru, proprio perché ci interessano direttamente. Ricordiamo che l'inquinamento dell'acqua non è soltanto un problema di potabilità dell'acqua, anche e soprattutto, ma anche e soprattutto comunque della non possibilità di utilizzarla per fini agricoli, e quindi l'inquinamento riguarda il bere e il mangiare, diciamoci da questo punto di vista. E in questi ultimi anni le società minerarie ed energetiche di tutto il mondo, perché appunto sono multinazionali, hanno dovuto affrontare una serie di cause internazionali per aver causato disastri naturali. Ricordiamo che per esempio sul banco degli imputati è salita anche la compagnia petrolifera la Shell, la Royal Dutch Shell, che è riuscita a evitare una comunità nigeriana citasse in giudizio, ma ha dovuto affrontare un caso portato a Londra da un'altra comunità nigeriana nel 2015. Secondo l'avvocato che difende la comunità Ikebiri, l'AGIP Oil Company, controllata appunto dall'ENI, ha affermato di aver già effettuato operazioni di bonifica nell'area. Un'affermazione contestata dalla comunità Ikebiri e, diciamo noi, anche dalla visione delle fotografie, insomma, dei video recenti che sono stati messi in rete proprio per evidenziare come non sia stato fatto niente o pochissimo da questo punto di vista. E quindi proprio per questo la comunità ha iniziato procedimenti legali, prima presso tribunali nigeriani e poi la disputa è arrivata anche in Italia, proprio perché l'ENI comunque è una società italiana. E come dicevamo prima, vi raccomandiamo di controllare il sito wombat.noblogs.org, perché fortunatamente la radio sta ingrandendo, ci sono nuove trasmissioni e nuove cominceranno a breve, quindi il palinsesto ha subito un po' di cambiamenti, quindi mi raccomando, andate su wombat.noblogs.org e controllate il palinsesto, e vi ricordiamo che dal menu podcast potete anche ascoltare o scaricare per ascoltarvele poi altrove tutte le trasmissioni della radio. Controllate anche il profilo Twitter della radio, che è Radio Wombat Fi, quello della trasmissione Uru, se vi piace l'Africa, se vi appassiona questa cosa, che è Uru-RW, e la posta, la mail, posta wombat@insiberia.net. Passiamo ad un altro interprete burkinabè della musica, e cioè Richard Seydou Traoré, nato nel 52 a Sifalasso, oltre che musicista è un produttore, ha infatti aperto una delle prime case discografiche in Burkina Faso. Nel 74 ha inciso il suo primo disco, che è in seguito diventato la colonna sonora a un film che lui ha interpretato. Lo sentiamo qui con il suo gruppo, quindi è Richard Seydoux Traoré e Le Vadou du Flamboyant. Il pezzo si chiama Katogu. Chingi ma aguer jelai, chingi ma aguer jelai, chingi ma aguer jelai, chingi ma aguer jelai, musi aguer chingi ma aguer jelai, chingi ma aguer jelai, chingi ma aguer jelai, musi aguer chingi ma aguer jelai, yam aguer chingi ma aguer jelai, musi aguer chingi ma aguer jelai, yam aguer chingi ma aguer jelai, musi aguer chingi ma aguer jelai. Yer bachi yi ya yi ye chum me yer tisi gurka tu yer Iba ye chul la yalla ngodiwa yiri ju ye la yo iba ye chul la yalla Iba ye chul la yalla ngodiwa yiri ju ye la yo iba ye chul la yalla Yer bachi yi ya yi ye chum me yer tisi gurka tu yer Gurka tu yer Gurka tu E continuiamo con la nostra rassegna di questo, della musica, dei suoni di questo periodo particolare della storia musicale del Burkina Faso, allora Alto Volta, e non poteva mancare un'orchestra, l'orchestra in questo caso, l'orchestra Sevede, che appunto prende il nome da il club Voltaïque du Disque, e quindi il club dell'Alto Volta, appunto, del disco. E appunto un inciso molto spesso ci avete sentito quando abbiamo detto, quando abbiamo pronunciato, diciamo, detto i nomi dei soggetti che suonavano molto spesso nell'orchestra, perché appunto in quella, in particolare in quella zona, in quella zona dell'Africa, Senegal, Mali, Burkina Faso, Guinea, insomma tutta quella zona che sta su quel mare, su quel golfo, l'orchestra è uno dei degli elementi, dei soggetti, diciamo, in questo caso lettivi musicali più conosciuti e più diffusi, proprio perché non avendo, in particolare proprio perché non avendo grosse disponibilità economiche, sia i soggetti che compongono e suonano e cantano, sia quelli che li dovrebbero supportare da un punto di vista della produzione dei testi e così via, e quindi molto spesso si riuniscono insieme, diciamo così, per suonare. E quindi questo ha portato alla proliferazione di queste orchestre, che a sua volta vengono molto spesso prendono i nomi da cui hanno dei luoghi in cui hanno iniziato a suonare. In questo caso prende il nome appunto di un'etichetta discografica, appunto il Club Voltaïque du Disque, e è uno stile il loro influenzato dal soukous, una delle musiche più conosciute, più suonate, più ascoltate del continente africano, e che ha avuto origine in Congo. Appunto uno stile influenzato dal soukous, e il loro disco più importante è uscito nel 75, e ci ascoltiamo da questo disco Rock Mic Africa, l'orchestra si vede. Africa, yeah. Nampa Africa. E questo era il nostro ultimo pezzo, vi lasciamo con la sigla di Uru. Vi ricordo che la prossima settimana, il prossimo venerdì, manderemo una replica, non saremo in diretta. Per la diretta ci ritroviamo il venerdì 26 gennaio, sempre alle 21:30. Ciao a tutti e tutte.